quello che gira di più. Questa è la strategia verso, mi pare che sia quello che gira più, più sia quello che ho sentito che aveva avuto, mi pare quello che gira meglio. Martedì 26, aspetta un attimo. Allora, pioggia. fino alle 10, poi le scusate, piogge e scarite fino alle 13 e poi miglioramento, temperature siamo intorno ai 13 gradi. Vediamo poi mercoledì pioggia, penso tutta la di, giovedì buono, venerdì torna pioggia, sabato buono e domenica buono, buono relativo, non piove almeno, qualche stuzzatina di acqua, mentre lunedì di Pasquetta piove. Se no potevamo fare qualche cosa di buono, andarci a fare la scampagnata, cosa. Sabato 30, la notte qualche stuzzatina di acqua, il vento moderato, c'è il vento però, a 24 nodi, e non so pochi, da ovest, vento di ponente. Poi temperatura percepita, rilevata a 13,6, percepita a 6 gradi e mezzo, fate lo conto. Chi vuole più cambiare questo tempo, questa la mia macchina, e poi mi ha voluto trovare la sua vita proprio pulita. E che ha fatto quella roba, poi non l'ha fatta, ha fatto uno con la figlia arancione in un deserto, e non era tutta bruttata, se no la macchina era in zinga. Già lo so, purtroppo quando viene con le, come si chiama, i venti dal sud, da Scirocco, da Libizio, ti porta su quella roba. Il brutto è quando poi si scontra con le perturbazioni fredde e ne va al mondo, come è successo l'altro giorno. La fregatura, cacchio, vabbè la fregatura, poi magari arriva l'estate a giugno e siamo sino a ottobre inoltrato e ti fa quel caldo maledetto. È quello che sta succedendo, cioè ti trovi un inverno freddo e poi di colpo ti viene l'estate, non c'è una via graduale come succedeva per dire 20 anni fa. Sì, la primavera non esiste più, è proprio saltata come stagione. Direttamente dalla cosa, dall'inverno all'estate. Guarda, dice addirittura a Tokyo, fioritura record di ciliegi grazie al clima estivo. Loro hanno il clima estivo, si sono invertite le stagioni a Tokyo, hanno il clima come il nostro, cioè l'inverno è come noi, cioè nello stesso periodo nostro a Tokyo. Eppure, avanti si chiede la fioritura record, qua in quel momento Cile, migliaia di crostacei di morti sulla spiaggia a video, tutta una montagna di crostacei. Che cosa va caldo? Praticamente il mare che non dà l'ossigeno e si forma l'acqua calda che forma sciogliere l'aria, fatte queste cose qua. Deve essere così, ma non si capisce niente, hanno scombussolato tutto con questi inquinamenti e cose del genere, e tutta l'evaporazione è tutta modificata, col calore che si genera dall'anidride carbonica, hanno modificato tutto. Piano piano ce ne stiamo accorgendo noi, chissà i nostri figli tra 30 anni cosa succederà, se ci saranno ancora. Secondo me la natura ci sta ribellando, una ribellione della natura nei confronti dell'uomo. Buonasera. Buonasera a me, Eugenio. Abbiamo papato? Sì. Ho cenato alla grande. Buonasera a tutti. Però Gianni, mi stai dicendo, ma tu hai pensato io? Io no. Ma ti ho detto che basta che tu vai su tecnocomunicazioni www.tecnocomunicazioni.com. Guardi lì e te lo scegli, quello che ti piace di più, ci sono tutti i prezzi. Metti alimentatori come voci, ci sono le voci che le trovi sulla sinistra dello schermo. Ci sono accessori, alimentatori, lineari, tutte queste cose qua. Ormai clicchi lì, i tuoi giorni te la mano, la puoi pagare anche all'arrivo, se vuoi. Ok, va bene, no, sono già entrato lì. Comunque, continuate, buonasera di nuovo a tutti. Sono così, ho pigliato la grossa direttamente, di modo che posso usare per tanti apparecchi, se non è diventato... Ciao, Gio, avanti, vabbè. No, io l'alimentatore l'ho fatta la spesa e questo morirà così. Con quello c'ho tutto attaccato, non ho problemi più di niente. Vabbè, l'altro era grosso lo stesso, ma l'ho fatto a chicco, è un quarto, da un quarto, vabbè un quarto magari è troppo, un terzo di dimensioni. Di peso sicuramente tre volte tanto ho preso, nemmeno lo smuove, cioè vedi la lancetta, come che c'è, una lancetta al minimo e su una super lì, quanti gradi sono? 180 gradi ti fa lo strumento, chi tu ti fa di 10 gradi di apertura? Adesso, che cosa c'hai? 50 ampere? No, c'ho un ceppo da 60 ampere, però non ventilato, sovradimensionato, che teoricamente può darne 120, sottodimensionato, cioè nel senso la potenza che dà con gli transistor che c'ha può dare 120 ampere se tu vuoi, però è calcolato per darne 60 e non accende, non ha nemmeno né niente, c'è solo un dissipatore dietro. La ZG è quello grande. No, non c'ha niente a che vedere con la ZG. Questi sono apparecchi da laboratorio professionali, certo, costruisce solo alimentatori questo. Avevo questo, devo cliccare su strumentazioni, no? Cosa avevo, dice trasmissioni. Strumentazione oppure alimentatori, c'è la voce alimentatore, prima c'è alimentatori, ma se non c'è lì c'è su strumenti. No, la voce alimentatore non c'è, c'è voce, dice trasmissioni, nautica, camper, outdoor e sport, casa, aeronautica, sicurezza e videosorveglianza, DJ point, fotografia e strumentazioni. E metti strumentazione, guarda lì. Accessori, non strumentazioni, accessori, vero roba. Mi sembra che c'è proprio alimentazione della pagina alimentatori, sono un po' che non c'entra, però mi sembra di sì. Sì, ma qua non trovo l'alimentatori. Non è tu. Aspetta, non entra come Media Globe, che c'è anche a Media Globe, ce l'ha gli alimentatori, quelli che volete voi, quelli suici. Non c'è da Media Globe. Comunque la comunicazione alimentatori ce li ha. Ecco, non mi stio. Allora, tecnocomunicazioni, negozio online, aspetta, lì ci sono le alimentatori. Ci sono? Allora, switching, Oxin, 25 ampere massimo, compatto, 55 euro. Oggi? Poi c'è 32 ampere, 69 euro. Io sarei andato direttamente per questo, per 14 euro di ferretta ti prendi quello. Che viene a morte? Aspetta un attimino, se c'è... Binoculi, se c'è proprio la pagina, perché io sono entrato nella pagina nella home, radio, UHF, PMR, professionali, ricevitori scanner, aeronautica, altro, mostra tutto le tratto categorie, aspetta, no? Tante chiamate, sono qua. Come vedi che ci sono gli alimentatori? Dove li vedi gli alimentatori? Vabbè, lì li devo sentire. Tecno, come si chiama? Vabbè, dimmi dove sei entrato per dove andare in cattura, fai un po' di strada. Io sono stato direttamente da IB dove c'è telecomunicazioni e ci sono le alimentazioni, ce ne sono due, ne ho visto, ma ce ne sono anche altri. Ce n'è uno da 25 ampere 55 euro, da 32 ampere 69 euro. Aspetta, se c'è qualcos'altro, un attimo. Io sono entrato a Google, è uguale. Entra sulla home page del negozio direttamente e ti appare la seconda, la prima videata, ci sono due alimentatori, c'è un rosmetro a Bogugusa, 65 euro rosmetro e a fianco c'è l'alimentatore e sotto quella lì c'è un altro. Vabbè, adesso ho la schermata del Kenwood, adesso le satellitari della Garmin, gli AESU portatili. Aspetta, guarda un'altra cosa, se magari è meglio, perché io molte cose le ho preso a Media Globo che costavano di meno, vediamo un po'. Ma forse un alimentatore costa Media Globo, alimentatore 30 ampere con filtro per la radiofrequenza, da 9 a 15 volt, 75 euro. Io avrei cliccato su accessori, amplificatori, antenne, connettori, dove... cosa hai cliccato? Entra su Media Globe, è scritto, qua mi sono 50.000 di alimentatori di tutti i prezzi e di tutte le potenze, ce n'è uno grosso da 50 ampere questo costa 100, quanti ampere lo vuoi tu l'alimentatore? Su Media Globe sopra. Entra su altro, aspetta, non è dietro la pagina, mi sembra altro scritto. Su accessori entra, eppure cerca nella pagina accessori c'è scritto alimentatori classici e alimentatori switching. È uno classico della Diamond da 30 ampere, questo stanno dando 139 euro con lo c'ha due strumenti, poi ce n'è un altro digitale sempre a 30 ampere 124 euro, non ho capito perché costa di meno con gli strumenti digitali. Sì, io trovo grazie, dai. Ce n'è uno Contrac PS 30 alimentatore 13,8 volt 30 ampere fisso. 52 euro. E questo della Proxel, hai mettato le 35 ampere di picco, vabbè di picco poi qui saranno una ventina di ampere continui, questo costa 69 euro, poi aspetta questo da 45 ampere, 55 ampere, ah, visto quanti ampere, non c'è neanche scritto, questo lo fanno di subito. E qui comunque una cinquantina, dai, vabbè ragazzi io vi lascio perché sta iniziando la mia serie preferita, la mia serie televisiva preferita, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao, ci sentiamo. Comunque c'è una zona, una zona, dove un cantore cerca questo qui della Focus, 60-55 NF la si chiama, a 50 ampere, ha gli strumenti grandi, belli, invisibili. Guarda, se uno è pratico di elettronica, ci sono gli alimentatori del computer. Con quelli lì riesci a farti delle belle studie, costano poco, li recuperi, ci sono ditte specializzate che vendono da coso, da questi alimentatori da computer, ti prendi l'uscita che vuoi tu e vai di lusso. Sono brutti, vabbè, a me mi piace anche mettere in cartone, mi piace illuminati con gli strumenti, non mi guardi a me che si così, sono così per vagone, no, non mi piace. Vabbè, la scatola, se ti busco una scatola, non è voluto, glielo metti tu, gli metti due strumentini, cosa avevo? L'ho visto dai cinesi l'altro giorno, mi proprio, quando è che sono andato dai cinesi? Domenica, quello vicino di fronte a te già, l'ex tourist market, e c'è un voltmetro digitale, che ho per attaccare l'accendi i sigari, con un decimale pure, 6 euro, per dire, ti metti quello lì come indicatore di coso, di tensione. Vabbè. A me guarda, ti parlo di qua, mi piace anche vedere bene le cose, cioè mi devono un piacere, se non mi piace non mi devo la fazione, sono fatto due opinioni. Certamente anche l'estetica conta. Il mio è talmente grande, l'ho messo sotto la scrivania, il tavolo dove c'è tutta questa roba, ce l'ho sotto, con tutti i cavi che arrivano là sotto, se no pesa un quintale a mezzo, pesa più di 20 kg, è una cosa enorme. Lo metto sotto di lì e poi c'è due strumenti e tutti gli ingressi, eccetera, eccetera. E da lì poi faccio partire un cavo di alimentazione e ci ho messo un voltmetro, uno strumento laboratorio digitale a due decimali, quello mi dà anche gli assorbimenti e coso, ce l'ho proprio davanti a me, se volevo vedere l'assorbimento e la tensione effettiva. Sì, io c'ho tutto sotto controllo, c'ho il voltmetro, il voltmetro, l'accordatore, c'ho l'alimentatore per un apparecchio, cioè io c'ho un alimentatore per un apparecchio, pubblico, e un voltmetro che vado là per tutti gli apparecchi, dove li collego, e poi diciamo microfono e via dicendo, poi è tutto ordinato, la pizza è fatta a piani, c'è un piano dove c'è l'alimentatore, due alimentatori perché li metto sopra gli alimentatori perché poi ci danno fastidio magari alla radio, c'è il coso, c'è il bagno, poi c'è la proprietà dove c'è sta libro, dove c'è il computer, l'orologio, e vabbè è un taccuino dove c'è la roba. E poi c'è un altro piano dove c'è l'ultimo acquisto, poi c'è un altro piano ancora dove c'è l'alimentatore, il Midland e dove mi cucino. Subito dell'impianto che ho fatto per il computer. No, anche io l'ho fatta nei piani, c'ho tanta roba, l'ho messa lì, tutte le cose che utilizzo, poi l'ultimo piano è più scenografico che altro, lì ci ho messo qualche altra cosa di qualche baracchino, qualche due preamplificatori di antenna, ci sono, qualche rosmetro, cosa ci sono, altre fesserie. Tutti gli altri ripiani, c'ho uno, due, tre, quattro ripiani, diciamo un metro di larghezza ognuno e sono pieni di apparecchiature. Più la scrivania bella grande e sotto la scrivania gli ho messo delle cassettiere, una cassettiera a quattro cassetti e un'altra più grossa, un unico cassetto dove ci metto tutta la roba lì. Poi tutto l'impianto è servito da questo alimentatore, questo grosso, e ne ho un altro di riserva da 25 ampere continui, quello che vende la cosa, la come si chiama, Lafayette, quello, il secondo più grosso, perché dopo di questo c'era un altro più grosso, però è lo stesso un buon alimentatore, però quello è ventilato, al contrario di quell'altro, che non ha bisogno di niente. Ci vorrei mettere dei portati, delle cose, però non ho il posto, è tutto pieno, poi già tutto bello sistemato, poi c'è da dire un'altra cosa dove ho rotto, anche qua è tutto bello ordinato, bello in fila, messo come volevo io, se ci metti altra roba, se la roba messa la separata, se va un tinaggio, invece così è tutta bella ordinata, di modo che faccia la sua bella figura, e mi piace così, là. Quindi il mobile che ho fatto laggiù l'ho fatto mettere le ruote da sotto, di modo che io lo possa avvicinare al letto, quando sono coricato ci parlo tranquillamente, quindi prendo e lo appoggio al muro. L'agume l'ha già fatto abbastanza bene, naturalmente ci sono state prove e riprove, non è che l'ho fatto tutta una volta, ci sono diversi anni, non dico di studio, però di abbinamenti, perché gli apparati, la linea del K è messa in un modo, poi a fianco sopra ci sono la parte, la zona di analizzazione dei segnali, poi c'è la zona dei ricevitori, eccetera eccetera, tutto fatto sotto a tutti, c'è il commutatore antenna con l'accordatore, grossmetro e wattmetro, quello grosso da 30G, e poi ho tre commutatori per dividere tutti gli apparati, e qui c'ho un altro ripiano separato, però sempre in linea vogliata, dove c'è il misuratore di campo e l'analizzatore di spettro. Ah, io non ho detto del tuo rosso, perché ci sono tante persone che li mettono separato, gli apparecchi, magari hanno su internet, te lo dico, cosa se vogliamo delle certe stazioni, è un accumulo di... non mi piace così, a montagne, no? Un apparecchio sull'altro, gli strumenti sotto gli apparecchi, se non mi piace. È anche sordi della cosa, secondo me. Io sono bugignolo, da lui ognuno fa quello che vuole, lui ha già messo le luci blu per la notte, faccio delle luci blu, cavolo, si illumina tutto di blu. No, qua già ho messo una panina nella stanza, è solo per questa roba qua, e altre cose, diciamo, uno studio, io lo chiamo studio, questo qui dove mi faccio tutte le cose mie, cioè tutte le mie passioni qua dentro. Ci ho messo una lampada bella grossa per illuminare al giorno, perché con la lampada non ti trovavi anche in difficoltà, molte volte dovevi leggere, fare qualcosa, ho messo un lampadone enorme, ho cambiato anche il lampadario, di quelli trasparenti, in modo che si veda bene bene, la luce non disperda niente, illuminata al giorno, sono quelle a basso consumo, però da 150 watt, fa una luce di base di gel, buro. Attacco piccolo? No, attacco grande, ho cambiato l'apparario, ho messo la padina, fate conto, è a basso consumo da 150 watt, e ti dice tutto. Non vorrei attivare quelle lampade di che si può passare alla stazione, magari deve puntare sulla parete, quando devi vedere qualcosa. Siccome sono di luce blu, quando devo mettere gli occhiali, quando mi chiedono segnali, c'è un'altra cosa per prendere la casa, metto a prendere gli occhiali, prendere dalla custodia, infilarmi il filo verso la scuola, e poi mettermi gli occhiali e continuare a segnare, è una cosa troppo lunga, non ci vedo più da vicino, non vedo più un capo, ma lontano c'ho 13 decibel. Però l'altro c'ho 10, però purtroppo da vicino non vedo un cazzo. Io sono al contrario, da vicino per l'età che ho, molta gente si meraviglia pure, dice come cacchio fai a vederlo, ma gente anche molto più giovane di me, dice io non ci riesco a vederlo, per dire cose infinitissime, c'ho un'ottima vista, dice, da lontano purtroppo ho perso parecchio, non ho più la vista da giovane, ma normalmente se succede il contrario, a me mi è successo il contrario da lontano, anziché da vicino, perché con la vecchia normalmente non vedeva vicino e vedeva lontano, io poi c'ho una vista da lontano, me ne frega 20 volte, e sta andando per gli 80, fa 80 anni adesso a luglio, e vede molto, ma molto meglio di me da lontano, da vicino non vedi a giù me la mano su. Allora, se ti può consolare, mia nonna, 96 anni, non gioca il giornale senza occhiali, cioè vedeva come è in fondo, allora se non lontano da vicino, non ha mai usato occhiali, niente, ha detto, questo è anche di fortuna, diciamo, comunque il dottore non me l'ha detto, l'oculista non l'ha detto, chi? Che dopo 40 anni solitamente non vede la decida. Quindi chi usa il computer anche prima. Sì, la norma è così, a me mi è successo esattamente il contrario. La vita si sta diminuendo in lontananza, e in vicino è uguale, più o meno come era prima, quando ero giovane, ho sempre visto bene da vicino, ma lontano purtroppo. E questo è nel votico è un coso, non perde la elasticità, come può essere un muscolo, col tempo si atrofizza e così non riesce a reagire, tardi a mettere a fuoco, per cui devi aprire e chiudere gli occhi per cercare di focalizzare l'immagine, ma è normale. Male, è fisiologico, non ci puoi fare niente per il momento, anche se ci sono delle tecniche che ti danno miglioramenti, ma non te la puoi dare, rimaniamoci così come siamo fatti. Però bello, mi sono già tutti e due gli occhi qui. Il problema è se ti forzi la vista, per dire, quando ti metti a leggere da vicino e ti forzi la vista e non vedi, a quel punto c'è il rischio che peggiori anche la vista. Se l'ascolti, sì, se l'ascolti è così. No, io ho fatto tutti i giorni, ho fatto la cataratta. Sì, ma la cataratta è un'ottima resa. Io conosco tanta gente, ma anziana, non giovane come te, molto, ma molto anziana, che è rinata. Mi ha detto, io adesso, dopo più di 20 anni, vedo le stelle, prima non le vedeva. Sì, è vero, mio padre è stato fatto in cataratta, non gli avevano fatto l'operazione, avevano 4 anni. Ci ha fatto parlare tutti i giorni. Le scritture del televisore, quelle piccole piccole, lui le leggeva tranquillamente la lontana. Dai, una domanda, adesso non c'entra niente. Ma tu c'hai anche l'antenna per le VU, cosa ascolti tu? Volevo non ascolto quando c'è bisogno di portatile, basta, te lascio a dormire. Ah, non c'è l'antenna esterna. Sto guardando su qua a Media Globo, ci sono bellissime antenne, c'è questa qua, Oxin MA 3000, antenna a base 144, 430, 3,40 di altezza verticale, 58 euro, poi c'è la sempre bimbanda, però di altezza non bisogna entrare sul coso, 47 euro, poi c'è la più piccola, è Oxin MA 1500, antenna bimbanda VHF, VHF da base 185 cm, 38 euro, una fesseria costa. Io ascolto bene, dico la verità, ascolto molto bene anche con il mio da casa, faccio anche la zona, non so perché in alto, ma ascolto proprio bene, bene, bene. Questa è bella l'antenna, la gamma operativa 144 e 430 VHF, guadagno su E5, VHF 9 dB e mezzo, lunghezza 2,55 m e materiale fibra di vetro, connettore N, peso 1,5 kg, anche leggera, è bella perché sembra un manico di scopo alla parte centrale, bianca, e, diciamo lo stilo abbastanza grosso, e più c'ha 4 radialini sottili sottili. Perché quella lì che ho io, la multibanda, funziona benissimo su certe cose, però sulla banda VHF c'è una grandissima carenza, cioè perde parecchio, ma sono accorto segnali che altra gente ascolta bene, non riusciva a tirarli fuori, vabbè, con antenne specifiche, diciamo, dedicate. Però per dire, sull'FM, l'8808, c'è una ricezione superiore alla Mantova, pur essendo la Mantova, vabbè, accordata per altre frequenze, però le dimensioni dell'antenna Mantova rispetto a quella mini Grand Plane del ricevitore sono 4 volte, 10 volte più grandi, eppure non riesco a certi segnalini a agganciarli con la Mantova. Con la multibanda ce lo fa. Sì, ma mi hai detto tu che hai sentito anche cose, non so dove, ma hai sentito la prefettura, perché sono battuto. Mi hai sentito, cosa hai detto, scusa? Prefettura di Sassari, Cagliari, eccetera, eccetera. Allora, Gianni, a livello di HF, la Mantova è eccezionale. Ti posso dire, ho risolto con tantissime soddisfazioni, quando c'era il coso delle prefetture, di tutta l'Italia, dal Trentino sino al Capomaglia era in Trentino, una donna, dal Trentino sino alla Sicilia, io ho sentito tutta l'Italia, c'era qualche radioamatore, no, io non li ascolto, e quelli rilanciamo, adesso rilanciamo Napoli, per dire, adesso lo sto dicendo nomi così, quelli parlavano, no, non li sentiamo, e io con la mano vado da qua, ho sentito tutto, tutti, non ne ho ascoltato neanche uno, chi più chi meno, ma i segnali erano tutti almeno 9 come segnale, quelli più bassi, a parte qualcuno magari, però forse erano zone un po' impervie, arrivavano un po' più basso, ma tutti intorno a 9 ce l'avevano, e loro c'erano antenne dedicate, cioè per le carte avevano antenne tagliate, accordate per quella lì, ti posso dire col 440, ascoltato tutte le cose, poi io mi trovo anche soddisfazione andando su frequenze basse, molto basse, e riesco a tirarle fuori, forse c'è una posizione, non lo so, io non l'ho mai trasmesso perché non ho la possibilità, nel senso di andarci su quelle frequenze lì, ma sono convinto che da qua in HF qualche soddisfazione sarà tutti. Ma anche se va molto bene la notte, tu lo faccio ascoltare la notte e va molto bene, non è un uso, quando mi vado potrò rilassare, no? Non mi vado a parlare, quando vado, ascolto, mi ascolto le cose gli altri e mi rilascio. È venuto qua Salvatore, un radioamatore, che adesso non c'è più, si è trasferito in continente adesso. Quando è venuto a casa mia, lui gli ha fatti dei collegamenti, si è messo le mani in testa, cacchio, magari avrò io una posizione del genere. Ma lo sai la gente che ha collegato? Ma in pochi minuti, in 10 minuti, lì è allucinante, dice, non me lo immaginavo che qua ci fosse, non lo so, forse è un riflesso o qualcosa, ma in HF avrà collegato un sacco di gente, in V non lo so, non posso dire niente. So solo che io con l'antenna non è che ricevo tanto bene, però in HF qua con questo apparato qui ci è riuscito e ha fatto dei bei collegamenti, e infatti è rimasto a bocca aperta, io da casa mia dice non riesco a fare collegamenti così, e poi io vado, non so se ci vai tu con l'HF già nelle frequenze non radiomateriali, come si chiama, broadcasting, ascoltare le radio onde medie, tipo su di tunisine, cinesi, di qualunque parte del mondo, parti da zero, da 600 kHz fino ad arrivare ai 14 MHz, sono tutto pieno di coso, di stazioni, ce ne sono centinaia e centinaia, soprattutto la notte, una attaccata all'altra, io c'ho, mi ho scaricato e preso anche da riviste specializzate tutte le stazioni, che ci sono anche stazioni internazionali che trasmettono in italiano, e qui c'è un po' di tutto, anche musica leggera, qualunque cosa, ma anche a livello di divertimento, se ti piace, ti giri un po', c'è di tutto, metti in AM anziché mettere in banda laterale. Sì, sì, già lo sentite, sì. Io ho sentito francesi molto spesso, sì, già l'ho sentito, qualche volta ci ho pensato il gusto di ascoltare. La cosa che la RAI, non ho capito, ne ha buttato in terra tutte le frequenze, adesso non c'ha più niente, c'era 1142 come si chiama, kHz, non c'è più, staccata, che era un segnale che lo ascoltavi tutti i giorni, Radio 1, è un segnale che lo ascolti, ti copre tutta la Sardegna ed oltre, anche quando andavi in Corsica, per dire, se vai in Corsica la radio italiana non le prendi, se volevi avere, come si chiama, sentiti i telegiornali, io quando andavo ci stavo sopra una settimana e non avevo, ero fuori dal mondo, a meno che non c'erano notizie importanti dell'Italia, se no non sapevi nulla, e lì mi mettevo in onde medie, 1142 da cosa, da Cucca, lì ci sono quei ripetitori, e arrivava, non dico fortissima, però si sentiva e sapevi un po' qualche notizia a livello di telegiornali. Io già sapevo, già mi trovo di bene, perché il francese lo capisco, lo capisce mia moglie, perché mia moglie ha i cugini, le cugine, gli zii, tutti in Francia, sono immigrati da giovani, i cugini sono nati là, ma quello per me è qua, parlano solo francese, se tu non parli francese ce la stanno muovendo e si trovano male, per inserirlo, devi parlare in francese, quindi a fuori di sforzarti a parlare, capito, fatti capire, diciamo che li capisco. Beh, già, tu puoi capire il francese, puoi capire anche l'inglese, però se non ti danno notizie italiane, loro, beh, quando era successo diversi anni fa, non so se ti ricordi che avevano tagliato la testa a quella tipa al centro commerciale, te lo ricordo? Sì. Io l'ho saputo di lì per la RAI, l'avevano detto la RAI, infatti ho detto, cacchio, di notizie allucinanti, ma di lì mica ti dicono queste notizie, loro parlano dei fatti loro, a meno che non, va a dire, hanno fatto il Papa, dicono che hanno fatto il Papa, o per dire se succede qualcosa di importante, di guerra e cose del genere, ma dell'Italia non ne hanno fatto nulla da nessuno. Vabbè, ne ho fatto solo da di là e basta. non lo so, poi i francesi, tu ci avrai parenti, ti posso dire, non è una bella razza, preferisco altre nazioni. I tedeschi che i tedeschi, che hanno fatto tanto danno durante la guerra, però preferisco 10.000 volte il tedesco io al francese. L'importante che ci sono io sono il corso, gli orari, non sono francesi, vabbè, i cugini sì, sono più francesi, ma li zio tutti gli orari rottini. Guarda che io ti posso dire una cosa, prima di tutto c'hanno un nazionalismo esagerato, cioè loro pur di comprarsi per dire la fesseria la macchina francese, sapendo che è una cagata di macchina, si prendono quella macchina lì e non si prendono la Volkswagen, per dirti, talmente sono fanatici dalle cose loro e gelosi delle cose loro. Sarebbe stato, non so se ti ricordi, il sistema televisivo francese, l'unico al mondo in tutta Europa che anche il Secam ce l'hanno solo loro e qualche colonia loro francese. In Europa tutti avevamo il PAL, ce l'avevamo, adesso vabbè, con digitale è cambiato tutto, ce l'avevamo il PAL, gli unici erano i francesi. Tu ti guardi la lingua francese, più la risolvete nel mondo, è la parte nazione loro, al contrario dell'inglese che la parlano tutti, ma ci sono tante di quelle cose. Tu vai a riparare una macchina, c'è un sistema di vita completamente nazionalista rispetto ad altre nazioni, per dire, americani compresi, se vedono che c'è qualcosa di meglio, per dire, copiano quella cosa lì e lo fanno anche loro, come fanno i giapponesi, lo facciamo in Italia, loro no, assolutamente no, vengono, vieni la guerra, loro non le fanno di consorzi con altre nazioni, se li fanno loro, gli elicotteri se li fanno loro, cioè, se vedete gli americani chiedono collaborazione, la NASA chiede collaborazione anche alla Lenia, per dirti, e no, loro devono lavorare solo per conto loro, hanno un modo di fare allucinante, i corsicani vedi, non li buoni vedi, io quando sono capitato in Asturia un giorno nel campeggio, il padrone del campeggio è un amico, un corsicano proprio corsicano, quando gli ho detto dalle Asturie, ha detto no, lascia perdere, quelli sono francesi, non sono come noi, ma ha detto proprio che ha detto no, lasciali perdere. Vabbè, ci sono più cose, per dire, si danno un canto a figlio, cosa lo conta la loro fanno, con più pensione, si danno un appalto per tutti i figli, capito? Se uno è disoccupato non fa la disoccupazione, non si danno un canto a figlio lo stesso, ma quando c'è pensione si danno un canto a figlio, capito? No, a livello di organizzazione sono sicuramente di gran lunga superiori a noi, però non pensare che ci sia la libertà che abbiamo noi, tu prova ad andarti a parlare male di un ministro, del presidente, se ti parli male del presidente della Repubblica ti arrestano immediatamente, se vuoi fare una manifestazione come la fai tu qua in Italia, lì sono molto, cioè non è una dittatura assolutamente, è una democrazia, però lì se per dire presidente da oggi facciamo il coprifuoco, lo decide lui e nessuno può dire niente, non ci puoi fare in Italia, invece deve entrare in Parlamento, approvare una legge, una qualunque cosa, lì il Presidente ha un potere allucinante rispetto a quello che può avere un Presidente italiano che non conta nulla, cioè è tutto diverso, cioè se ti avvardi per dire a essere un pochettino, adesso magari il comunismo non esiste più, ma prima quando c'era il comunismo, se tu per dire, facevi qualche riunione o cosa del genere, ti munivano in diretto subito e ti buttavano via la chiave, qua in Italia le libertà politiche ce l'abbiamo diritto, sono molto molto molto molto meno che ne abbiamo noi. Allora ci sono, ma infatti no. Io ho visto la polizia caricare uno perché ha detto abbasso la bandiera italiana, una cosa del genere, ma ha detto scherzando, c'era praticamente giuramento, certi militari che marciavano, perché non so che cos'era, qualche festa militare. Questa adesso la bambina italiana, ma altro scherzando, stanno guidando le gariche di macchina. Io so che la polizia, i servizi segreti francesi nel mondo sono all'avanguardia, invece hanno delle cose che neanche ci immaginiamo, loro sanno già tutti come si muovono i terroristi, cose del genere, c'hanno, perché loro sino a, per dire, a 40 anni, 50 anni fa c'erano quei paesi, erano in coso, in Algeria, loro di lì combattevano contro le cose, mica sono i servizi segreti, fanno delle cose sporchissime in quei paesi, magari adesso molto di meno, ma prima facevano delle cose, ho visto delle situazioni dei programmi della televisione, cosa combinavano le torture, altro che i diritti umani, ne hanno fatto di tutti i colori i francesi, le colonie, come si chiama? Le colonie francesi ne hanno, lasciamo perdere. Gli americani e gli americani molte cose non sono arrivati a fare come l'hanno fatto i francesi in Africa. Sono gli americani, hanno solo una pecca, insomma, hanno la mania della grandezza, dove si esce a domandare. Vabbè, quella lì è il coso, è la mentalità loro, la loro, come si chiama? Loro non sono nativi, sono delle persone, un miscuglio, non la puoi neanche chiamare una razza perché vedi tutto in America, dagli inglesi, francesi, irlandesi, italiani, di tutto, cioè, per cui i nativi del posto sono gli indiani, ma non contano nulla, per cui è inutile dire, come dice gli americani sono di origine inglese, e c'è tutte le pecche degli inglesi se le hanno portate appresso, così le pecche dei francesi, le pecche degli italiani, eccetera, eccetera. Non è una nazione come può essere che c'è una storia l'Inghilterra, l'Italia, la Francia o cosa ti posso dire, o la Russia, sono di quelle nazioni giovani, o l'Australia, la stessa cosa, e il Sudafrica, sono nazioni nuove, per cui non hanno storia, non hanno niente, e loro vivono così adesso ai giorni nostri, prima non hanno una, cioè dei, come si chiama, infatti la storia, diciamo la storia che possiamo avere noi come italiani. Comunque gli americani ne hanno fatto tanto male, ma hanno fatto anche del bene durante la seconda guerra mondiale, meno male che c'erano loro, se no chissà saremmo stati noi, probabilmente saremmo stati nel coso dell'est, con qualche paese dell'est, se non si fosse fatto qualcosa per anticipare, se no abbiamo fatto la fine della Jugoslavia, non ci credo. E vabbè, sappiamo stare altri americani, ma solo che ti dobbiamo secondo gli americani. A noi hanno fatto tanto, anche in Sardegna hanno fatto tanto contro la malaria, povertà e cose del genere, avranno fatto anche di te di sì loro, però hanno fatto anche del bene. Adesso dobbiamo stare attenti non tanto né agli americani né ai russi, né a prima dovevi mai temere si perdere nella guerra, russi e americani, anche terza guerra, adesso devi fare attento a questi fanatismi islamici e cose del genere, quello che devi temere, che sono cose pericolosissime, gente non gliela putti nuda, se vanno in mano a loro qualche oggetto ordigno nucleare, quelli sono capaci di assaltare tutto, non gliela putti nuda, se ci sono donne, bambini o civili non gliela putti nuda, gente che non ha nessun valore né niente. Io sono tanti amici di come si chiama musulmani, ma gente in gamba veramente, ma poi ci sono le pecore nere come tutte le parti, però quelli non hanno niente da perdere, gli italiani sono sino a putti, si mettono un coso di cinturone di granite, entrano nel supermercato e ammazzano 100 persone, non gliela putti nulla. Sì, non interessa manco per la rubrica, infatti Ugo, immaginati tutti. Ma se mettono anche i bambini, quei palestinesi, è inutile dire, gli israeliani hanno fatto tante schifezze, tante cose, ma io ho visto delle situazioni, ho sentito un'intervista, dice questa donna, io ho due figli, adesso saranno grandi, ma li metteva in due pullman diversi perché aveva paura, dice almeno uno si salva se dovesse succedere qualcosa, perché c'era ogni giorno il pericolo che facessero degli attentati negli autobus, negli scuolabus. Uno lo metteva con uno e uno con l'altro, dice almeno un figlio se Dio vuole me lo salverò, perché erano sempre terrorizzati da questo fatto qua. Poi loro avranno fatto le schifezze loro, nessuno mette in dubbio, però loro si stanno anche difendendo, perché io sono convinto se gli italiani dice beh da oggi non si fa più niente, arrangetevi, fate quello che vuole, loro saranno sicuramente aperti a comunque, solo che quelli ormai hanno l'odio incarnato dentro, cioè loro è come che vedi il demonio, per quello ne avranno ammazzato, magari in ogni famiglia ci sarà un morto o un parente o qualcosa in ogni famiglia palestinese, però cazzo, non è possibile vivere così col terrore. No, tranquilli, certo la pace di qua non ce l'hanno, certo. Se vai al supermercato devi stare attento a quello che mettono la bomba e così, usano sempre se ti va. Adesso a giugno c'è il campionato di Europa di calcio, Under 21, e lo sai dell'Umbria, in Israele, io non verrò andato. In quel paese sai, per vai non so se tu, ti rapiscono, torna tutto, fanno sempre di queste cose qua, tutto la passata locali, discoteche, di tutti da lì. Allora, so, è una cosa allucinante, poi ci sono gli infiltrati di Al-Qaeda e cose del genere, ma i palestinesi, il 99% sono gente tranquilla, non ne hanno tutti nulla, perché anche loro non gli piace stare sottomessi e vivere in quelle condizioni, poi trovi qualche scemo di quelli esaltati e ti butta un paio di razzi dentro la città, a versare quelli rispondono con gli aeroplani e ammazzano centinaia di persone innocenti. Purtroppo è una generazione generazione di merda, noi viviamo una generazione di merda, che è uno schifo, il mondo sta diventando uno schifo. Se tu mi dici dove vuoi andare a vivere fuori dall'Italia, ci dovrei pensare tantissimo prima di decidere. Niente da dire, io parliamo di un posto sicuro dove non succeda, non ci sia rischio, per dire, in Austria se succede una guerra, un conflitto, l'ultimo che si batta sono gli austriaci, gli italiani e tutti i paesi europei, cosa ti credi? Anche se l'Austria è un paese neutrale, cosa del genere, tipo la Svizzera, ti fate un bombardamento di quelli nucleari e ci passa tutta l'Europa. Io dico un posto dove non ci sia niente da temere, né problemi di natura e né problemi di bombardamenti e cose del genere. Mi forse al Polo Nord, dove c'è stato, è troppo freddo. A me piacerebbe stare nei paesi quando c'è caldo, però nei paesi nordici, tipo Islandia, quei posti lì, Finlandia, però in piena estate, quando ci sono, per dire, 20 gradi, che si può stare abbastanza bene, anche d'inverno, mamma mia, però sono posti che vorrei andare a visitare. Come mi sarebbe piaciuto andare in Giappone, posti degli anni, ma come cazzo fai a fidarti di lì? Di lì sono più mancanti buru per certi versi, di lì ci sono le sette, è peggio di quei fanatici di cose. Di Maria di Metropolitana, cioè, non siamo, ti buttava un gas di quelli tipo antracce, cosa del genere, ti ammazza 1000 persone. E non è che ti può fidare, le mancanze di certi, ma c'è anche in America, tutta l'America, Stati Uniti, eccetera, eccetera, che si sente di questi che vanno nella scuola, ammazzano gli alunni, la maestra, quanto ce ne sente in America di queste cose, lo stesso. No, lo so, ma noi nel mare nostro, nella nostra, nel nostro isolamento della Sardegna, per certi versi stiamo bene, perché io ho amici che vivono su in Alta Italia, zone tipo in Emilia, posti così, e hanno male la villetta, ecco, dice che sono terrorizzati loro di notte, che di lì è tutto pieno di rumeni e gente del coso, serbi, paesi ex Jugoslavia, ma dice devi stare attento la notte lì, che dice entrano nelle villette e ammazzano tutti quello che trovano per rubargli 3 lire e cose del genere. Sta diventando uno schifo. Almeno noi da quel punto di vista siamo abbastanza, non ne sentiamo uno di quel tipo di delinquenza, siamo abbastanza tranquilli, è una città tranquilla, Sassari. Ma se tu vai per dire già disposti verso Olbia o verso Alghero, devi stare attento come ti muovi. Ma noi abbiamo preso il lungo per Santa Teresa. Cosa avete preso? Il lungo per Santa Teresa. Preso un negozio, avete aperto voi come ditta? Scappa, non ho aperto una Santa Teresa. Questo qui è un negozio di un nostro socio che aveva 3 figli, loro si vivevano in aria negata e hanno mollato. E l'abbiamo preso noi. Ma poi ci abbiamo aperto. C'è tanto? Sì, ma c'è, vabbè, l'estate è una miniera, e questo di mare con l'estintino ne abbiamo 2. Certo, ma perché l'anno dell'estate ce l'hai, perché però nessuno. È una miniera, grazie, più lasciato che più c'è gente. Già lo so d'estate, però il resto dell'anno, cosa lavori 3 mesi e buco, il resto dell'anno cosa fai? Ti gratti. Perché tra l'altro Santa Teresa di negozi supermercati ce ne sono diversi, non è che uno apre un negozio e poi senza fare un'indagine ai mercati per vedere. Perché se ci sono 100 abitanti e tu viso 3 supermercati, 100 diviso a 3, ci riapri l'altro e vedo 100 diviso a 4 e così via. Alla fine i soldi sono sempre gli stessi, non è che si apre un supermercato, devi togliere un pezzo di clienti all'altro supermercato, devi abbassare un po' i prezzi per cercare di entrare, per cui non è che sia tutto volante. Sicuramente chi l'ha aperto si avrà fatto i conti, però io ci penserei 2 volte prima di entrare in un posto del genere. Va perché chi ce l'ha verba. Un po' di rame come gli zingari. Ciao Zingaro.